1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Ci siamo? Sono le 7:18 minuti, cari amici debosciati miei. È da tanto tempo che non vi do dei debosciati. Eccoci qui. Allora, è venerdì! Esultate, è venerdì! Per quel che mi riguarda, mancano 10 albe alle vacanze. Il nostro amico Paolo Escavatorista, quanto manca? Quanto manca? Paolo Escavatorista alla pensione, credo 16 giorni? Più o meno? Vedremo. Allora... Oggi parleremo un po' di questa vicenda dei vitalizi che tra poco vedremo. Parleremo però anche di doping. Sapete che sono sempre più le persone nel mondo dei dilettanti e dello sport, degli sportivi della domenica che utilizzano il doping, l'aiutino per andare in bicicletta la domenica o per andare in palestra o per pomparsi un po' i muscoli. L'ultima inchiesta della Procura di Brescia e ne parleremo dalle 9:05, parleremo di vitalizi, parleremo di tante cose, insomma. Intanto andiamo a leggere i giornali. Le 7:19 minuti, dai, in questo venerdì 10 luglio, borse, torna la fiducia in rialzo, azioni e bond, questa è l'apertura del Sole 24 Ore, mentre devo annunciare che non troverete in edicola Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport che sono in sciopero. Corriere e Gazzetta oggi in sciopero. Repubblica, Grecia piano da 12 miliardi, le borse credono all'accordo. Poi la riforma della scuola è legge, subito assunti 45.000 precari, così apre La Stampa, e non è l'unico giornale che apre sulla scuola. L'Unità elogia, promossa la buona scuola, mentre dal Manifesto c'è una dura condanna. Scuola di partito, questo è il titolo del Manifesto, con la foto del voto alla Camera. Beh, questa notizia di cronaca terribile è l'apertura del Messaggero, perché è successo a Roma. Cade nella metro, muore a 4 anni. La tragedia a Roma, bimbo precipita nella tromba dell'ascensore, guasto davanti alla madre. L'errore di un addetto che aveva tentato il trasbordo su un montacarichi. Per il giornale invece la parabola di Renzi da rottamatore a rottamato, ma certamente lo scoop è del Fatto Quotidiano. Oggi pubblica un'intercettazione, una telefonata che vede protagonisti il presidente del Consiglio Renzi e il generale della Guardia di Finanza Adinolfi. Era stata secretata questa telefonata, ora viene pubblicata dal Fatto Quotidiano, dopo la leggeremo. Guerra a Letta e i ricatti alla famiglia Napolitano. Renzi al generale al telefono dice: Letta è un incapace. E poco dopo ci fu il cambio al governo. Lo vedremo, perché certamente questa telefonata oggi animerà il dibattito politico. Intanto però da cosa iniziamo? Beh, ieri c'è stata la sentenza definitiva che ha lasciato a piedi Uber Pop, una delle applicazioni con cui si utilizza Uber, questa alternativa al taxi. Sapete che è una battaglia di corsi contro ricorsi. Il tribunale lascia a piedi Uber. Sara Monaci, pagina 15 del Sole 24 Ore. Per Uber Pop l'esperienza italiana finisce qui. Il tribunale di Milano ieri ha deciso che il servizio di trasporto più libero ed economico di Uber, quello con l'autista fai da te per intenderci, deve essere sospeso. Servizio introdotto a Milano, Genova, Torino e Padova a partire dal maggio 2014 prevedeva che un qualsiasi conducente, tra virgolette, improvvisato, con caratteristiche di affidabilità, cioè regolare patente da almeno 3 anni, fedina penale pulita, potesse utilizzare la propria auto per qualche ora al giorno come una sorta di dopo lavoro per accompagnare gli utenti a costi di poco superiore a un rimborso spesa. Un'iniziativa che ha preso vita a Genova, da oggi però è finita. Certo, rimane l'applicazione Uber Black, l'altra applicazione Uber che continua a funzionare a Roma e a Milano, ma Uber Pop no. Addirittura il quotidiano La Stampa, a pagina 18, racconta con Fabio Poletti che il giudice, nel decidere così, ha scritto che Uber Pop non solo viola il principio di concorrenza, ma è pure pericoloso. Questa app approfitta della fiducia dei giovani incuranti dei rischi. Tanto che il titolo della Stampa è Uber pericoloso per i giovani. C'è anche un interessante commento di Lello Naso, sempre sul Sole, a raccontare: mettiamoci nei panni degli spettatori, quelli che pagano il biglietto, cioè in questo caso la corsa del taxi o delle auto di Uber. Ma davvero lo spettatore è interessato a questa infinita querelle a colpi di ricorsi, controricorsi, sospensive, decisioni di merito? Ne dubitiamo fortemente. Lo spettatore, crediamo, vorrebbe pagare il biglietto al prezzo più adeguato allo spettacolo che gli viene offerto e veder bene la partita, punto. Negli anni Ottanta in tutto il paese vennero erette barricate di ogni tipo per impedire l'apertura di supermercati, ipermercati, centri commerciali. Dovevano essere salvati i negozi di prossimità, i luoghi in cui i cittadini socializzavano e facevano la spesa a misura d'uomo, vade retra supermercato. Nessuno si poneva il problema del prezzo del prosciutto. Se ci mettessimo per una volta nei panni del cittadino, non costruiremmo inutili barricate, non avremmo paura del mercato, ci porremmo il problema di indennizzare i diritti acquisiti di tassisti e disciplinare con poche chiare norme le attività di Uber. E faremmo così quello che in 56 paesi del mondo hanno già fatto. Così Lello Naso sul Sole 24 Ore, comunque, di questa vicenda Uber al prossimo corso, ricorso, contro ricorso. Se ne parlerà ancora. Oh, dicevamo, parleremo di questa vicenda dei vitalizi, ma mi sembra che alla fine si è davvero partorito il topolino, come si suol dire. La norma che porta alla sospensione dei vitalizi di coloro che hanno subito una condanna definitiva ha portato a abolire il vitalizio a 18 ex parlamentari. Tutto qui. Cioè tutto sto gran casino, abbiamo fatto dibattiti, abbiamo fatto discussioni per bocciare 18 vitalizi. C'è Silvio Berlusconi. Berlusconi c'è sempre in mezzo. Silvio Berlusconi, che prendeva un vitalizio da 8.000 euro, è stato sospeso. Marcello Dell'Utri, i nomi li avevamo già anticipati alcuni ieri, li anticipavano i giornali. È Marcello Dell'Utri, c'è l'ex ministro della Sanità Francesco De Lorenzo, Giulio Di Donato, ex vice segretario del PSI, c'è Pietro Longo, che guidò il Partito Socialdemocratico e fu anche ministro. Vitalizia addio per 18 ex parlamentari, così il titolo di Repubblica. Stop ai vitalizi, anche Berlusconi finisce sotto la scure, così il Secolo XIX. Non c'è giornale che non dedichi una pagina a questo. Pietro Longo, intervistato dal Messaggero, da Antonio Calitri. L'intervista la trovate a pagina 15. Con quei soldi ci vivevo, ora venderò la casa. Parliamo di fatti del 75. Pensi quanti anni sono passati, questa è la sua condanna. Guardi, 80 anni, sono in una fase tranquilla, dice Longo. Sto lavorando ancora e cercherò di campare con quel che ho. Se servirà, venderò la casa. E che abbiamo comprato con mia moglie, 50 anni fa, e finiremo la nostra vita. Insomma, è andata così, Longo. Ma guardi, io parto da un presupposto che ho imparato in guerra, quando ero bambino. In politica si può arrivare fino alla fucilazione. Se uno parte da questo, può dire che bene o male siamo un paese democratico, pieno di populismi, estremismi, però non ci hanno fucilato ed è già un passo avanti. Beh, insomma, come al solito, poi le dichiarazioni sono esagerate, non ci hanno fucilato è già un passo avanti. C'è un'intervista a Matteo Richetti, che ha fatto una proposta di legge, ed è del Partito Democratico, su Libero, a dire basta scuse, aboliamoli tutti. Questa è la proposta. La proposta è un progetto di legge, 14 articoli, che prevede il ricalcolo delle pensioni per tutti i parlamentari attuali e futuri col sistema contributivo, così come avviene per tutti i lavoratori dipendenti. I vitalizi attualmente percepiti verranno definitivamente aboliti e ricalcolati secondo il nuovo sistema contributivo. Questo è il progetto di legge. Mi sembra una roba talmente normale, se non si vuole considerare che il Parlamento sia un luogo dove si applicano delle norme diverse rispetto a quello che si applica per tutti i cittadini, cosa che peraltro è, perché il Parlamento ha l'autonomia, mi sembra una cosa normale, basilare, che non si dovrebbe neanche discutere, cioè ricalcolare tutti i vitalizi. Nessuno vuole affamare nessuno, anche se c'è la vergogna di chi è stato 3 giorni in Parlamento a prendere il vitalizio, ma questo l'abbiamo detto 1000 volte. Ma comunque, se uno ha fatto politica per 30 anni, ha diritto a un vitalizio, cioè a una pensione, e va bene. La vogliamo ricalcolare come per tutti gli italiani? Tutti, è stato deciso nottetempo con la riforma Fornero, col contributivo? Quanto ci vuole a discutere di questa cosa? Vi diamo 7 minuti, 8 minuti, mezz'ora, e poi fatelo con una firmetta, una firmettina, fatelo. Se non lo si fa, come al solito, è una scelta politica di non farlo, e va bene così. Allora, siamo al momento della carta costa, no, della carta costa, siamo al momento dell'articolo che ci fa più zare della giornata. L'articolo che ci fa tenere le mani strette sul timone, sul volante, no, sul timone, perché è il comandante Schettino che torna protagonista in un articolo di Filippo Graziosi sul Giorno, pagina 17. La lettera segreta di Schettino, quando o comandante scrisse alla madre di Diana, 5 anni di Rimini, la più giovane vittima della Concordia. Ti abbraccio, piccola Diana. Così la lettera, pubblicata ora per la prima volta nel libro, l'imprescindibile libro scritto da Schettino, il cui titolo abbiamo già discusso varie volte, Le verità sommerse. Ebbene, il Giorno fa sapere che Schettino scrisse all'epoca la gentile signora Susi. Mi rincuora saperla forte, le sue parole ne sono tangibile evidenza. Vorrei abbracciarla. Questo l'inizio alla lettera, della lettera alla mamma di una vittima del naufragio della Concordia. Scrive Schettino: sappia che nelle fasi dell'emergenza ho agito in piena coscienza, prima da uomo e poi da comandante. Ancora oggi ritengo fermamente che la nave non si sarebbe dovuta ribaltare, condizione anomala che non ha permesso a Diana e agli altri di porsi in salvo. Voglio accettare la mia vicinanza al suo dolore. Il problema dunque è il ribaltamento della nave, non essere passati su degli scogli, evidentemente. La madre di Diana, scrive il Giorno, non ha mai risposto. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Alessandro Milan, la polenta e rosei dell'informazione. E a quest'ora, per chi è sveglio dalle 5, una bella polenta e rosei, guardate che potrebbe anche essere una buona colazione, eh? Un buon companatico. 7:34 minuti, quasi quasi una polenta e rosei, siamo già pronti. Quasi quasi. Allora, cari ascoltatori, la riforma della scuola c'è ed è legge, e questa è la notizia politica certamente più importante per tutti i giornali, anche con le contestazioni, le spaccature. Per esempio Goffredo De Marchis racconta, pagina 10 di Repubblica, nel retroscena, della spaccatura del PD. Ora, bisognerebbe dire che è la 5 milionesima volta che si titola della spaccatura del PD. Comunque Renzi dice le assunzioni, il ministro Giannini dice le assunzioni non sono né dovute né fittizie, sono nuovi posti, risorse umane che vanno nella scuola. Certo, però Renzi guarda i numeri si pesano, non si contano, come scrive De Marchis. Alla fine si festeggia il risultato. Davanti alla maggioranza più bassa del suo governo, Renzi dice la riforma della scuola è diventata legge, questa è la cosa fondamentale. Ma c'è effettivamente il più basso numero di votanti a favore, 277 sono stati favorevoli, 173 i contrari, e la più bassa maggioranza registrata da Renzi, che comunque incassa questa riforma. Ora ovviamente ci sono tutti i dettagli della riforma, sono stati discussi varie volte, ne abbiamo discusso anche qui. Tutti i giornali pongono, a cominciare dal Sole 24 Ore, che cosa cambia ora nella scuola in termini di flessibilità, di stipendi, di valutazione, del potere dei presidi, uno degli elementi più discussi da chi è contro questa riforma. Potranno scegliere infatti i docenti rendendo pubblici i criteri di scelta adottati, e si dice troppo potere a una persona sola, comunque troppo accentramento. I presidi dicono invece così finalmente c'è la valorizzazione della scuola e meno potere di veto ai sindacati. Insomma, è il solito dibattito, ognuno poi sta dalla parte che vuole. come giusto che sia. Valeria Arnaldi racconta sul Messaggero, ve lo segnalo a pagina 5 perché è interessante, il rischio concreto, poi la corsa contro il tempo, si rischia una valanga di ricorsi. È il tempo il nuovo nemico della buona scuola, scrive il Messaggero. Approvata ieri, ora la riforma rischia di scontrarsi con le scadenze del calendario scolastico. C'è un mese per ripensare la gestione sulla base delle risorse in arrivo. A scaglioni, i primi 36.000 insegnanti stabilizzati saranno immessi in ruolo entro metà agosto, altri 11.000 a settembre. Fin qui i numeri garantiranno il turnover, coprendo posti vacanti e disponibili. Il prossimo anno arriveranno ulteriori 55.000 insegnanti, stavolta chiamata diretta, per il cosiddetto organico funzionale. L'urgenza ovviamente per le prime nomine da effettuare nelle prossime settimane, e si rischia la solita valanga di ricorsi. Questo potrebbe succedere. Comunque la discussione è questa qui. Ma la notizia che secondo me farà più dibattere a livello politico oggi non è tanto la riforma della scuola, ma l'intercettazione che riguarda il presidente del Consiglio Matteo Renzi, che viene messa dal Fatto Quotidiano in pagina. Oggi in prima pagina c'è l'intercettazione, lo sbobinato di una telefonata dell'allora soltanto leader del PD Matteo Renzi al telefono con il generale della Guardia di Finanza Adinolfi. Parlano, è l'11 gennaio del 2014, poco prima che ci sia il cambio Letta-Renzi al governo. Vincenzo Iurillo e Marco Lillo a pagina 2 scrivono e sbobinano la telefonata che è entrata nell'indagine di Napoli sulla CPL Concordia. Era stata secretata ed evidentemente ora è stata desecretata oppure è stata acquisita dal Fatto Quotidiano. Ore 9:11 del 10 gennaio 2014. Renzi risponde al comandante interregionale della Guardia di Finanza Michele Adinolfi. Vabbè, parlano, come stai, tanti auguri, amico mio, eccetera. Ecco, e parlano del rimpasto. Rimpastino sicuro, dice Renzi. Rimpastone, non rimpastino. Il problema è capire se mettere qualcuno dei nostri. E poi parlano di Letta e sentite come Renzi definisce Enrico Letta. Lui non è capace. Non è cattivo, e non è proprio capace. E quindi, però, l'alternativa è governarlo da fuori. E Adinolfi, generale della Guardia di Finanza, suggerisce la soluzione. Secondo me il taglio del Presidente della Repubblica, sarebbe perfetto, Renzi dice. Sarebbe perfetto, gliel'ho detto. L'unico problema, dice Renzi, è che bisogna aspettare agosto del 2016 e quell'altro, si riferisce a Napolitano in carica, non ci arriva, capito? Me l'ha già detto. Quell'altro 2015 vuole andare via. E poi Renzi aggiunge: Michele, cioè Adinolfi, mi sa che bisogna fare quelli che la prendono nel culo personalmente. Poi vediamo, magari mettiamo qualcuno di questi ragazzi dentro la squadra a sminestrare un po' di roba. E purtroppo si fa così, dice Renzi. Non ci sono alternative, risponde il generale. E poi Renzi conferma che Napolitano è contrario e aggiunge: Berlusconi invece è favorevole. Berlusconi è favorevole a questo cambio. L'incontro Renzi-Berlusconi è poi del 18 gennaio, ma fu annunciato il 16, 5 giorni dopo la telefonata. Renzi, dunque, al generale al telefono, scrive il Fatto Quotidiano: Letta è un incapace e Berlusconi è con me. Certo, alla fine di questa telefonata c'è anche alquanto insopportabile questa chiacchierata tra il generale Adinolfi e Renzi. No, ma la vedremo tra poco, perché la devo dire quando c'è anche Mauro Meazza. No, ma il Fatto Quotidiano non si ferma qui nello sbobinare il racconto. Scrive anche a pagina 3 di un incontro durante una cena tra Dario Nardella, allora vice sindaco di Firenze, oggi sindaco di Firenze, il generale Adinolfi in questione e altre due persone. Una cena, 5 febbraio 2014, alla Taverna Flavia di Roma, pranzano e c'è una cimice che ascolta quello che loro dicono, dei carabinieri del nucleo operativo ecologico. E di cosa parlano? Parlano a un certo punto di Giulio Napolitano, cioè il figlio dell'ex presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Sanno qualcosa di Giulio. Eccolo qui, a un certo punto il generale della Guardia di Finanza, parlando del cambio del governo possibile, Letta al potere, dice: Giulio, il figlio di Napolitano, Giulio a Roma è tutto, tutto, ma sembra che l'ex capo della polizia De Gennaro e Enrico Letta ce l'abbiano per le palle, sapendo qualche cosa di lui. Ora, come scrive il Fatto, potrebbero essere parole in libertà, ma una democrazia, scrive il Fatto, non tollera ombre, e dunque c'è tutto spiattellato sul Fatto Quotidiano. Veniamo appunto alla fine di questa telefonata, torniamo alla telefonata tra Renzi e il generale della Guardia di Finanza, Adinolfi. A un certo punto il generale Adinolfi, nel salutarli, dice: guarda Matteo, ti ho mandato una cravatta bellissima. Grazie, dice Renzi, il colore lo puoi cambiare se vuoi, c'è del rosso e del nero. E Renzi: ma no, io amo il calcio minore. Ecco, caro Presidente del Consiglio, le faccio rispondere da Mauro Meazza. Buongiorno, Mauro. Buongiorno Alessandro, scusa, perché dovrei rispondere io a una cosa? Sistema tu il Presidente del Consiglio, per favore. Ma cioè, ci mancherebbe il calcio altro. Minore, il colore rosso e nero. Caro Presidente del Consiglio, io non lo so, tutto il resto della telefonata non mi interessa e non la giudico, ma insomma, avvenendo alle cose serie, qui bisogna darsi una regolata. Guarda, poteva dire di peggio, poteva dirti stai sereno, caro calcio minore, e stavi proprio... Ma infatti il generale Adinolfi, che è notoriamente milanista, scrive il Fatto, gli risponde: stronzo, vabbè, insomma, in amicizia. Vabbè. Vedo che è stata una telefonata abbastanza così liberale in qualche modo, sì. Nel linguaggio, come vabbè, ma le vabbè. Telefonate si sa ogni tanto. Senti, aiutami un momento, perché sì. Si apre oggi un fine settimana decisivo. Che è ecco, no, però stavolta, cioè, però per davvero sulla no? Grecia, ecco, non bisogna aver paura a dirlo stavolta. Allora sul Sole 24 Ore di oggi, tra le altre cose un taccuino pratico del risparmio, cioè due pagine dedicate appunto agli investitori e ai risparmiatori, con un'analisi sia per quanto riguarda gli investimenti in azioni, sia per quanto riguarda gli investimenti in titoli del reddito fisso, bond, bund, quello che insomma muove questi due eurini da qualche parte, vabbè. E diciamo in due pagine dove si può posizionare il risparmio, anche considerando non solo la Grecia ma anche la Cina. Sai che la Cina... Stiamo parlando da qualche giorno, adesso le cose vanno meglio, c'è stato un intervento appunto dello Stato, ne riferisce Rita Fatiguso già in prima pagina sul Sole 24 Ore. So che della scuola si è detto, hai già segnalato il nostro lavoro, quindi Deox Satis, mi viene da dire, vorrei essere un po' ricercato in questa... Si sa. Invece ti vorrei segnalare questo, tu appuntatelo da qualche parte. Allora, a un certo punto, nei primi piani del Sole 24 Ore, nelle prime pagine, segnaliamo che per la manovra del 2016 ci sarebbe già un bisogno di, diciamo, una ventina di miliardi. Cioè, manco abbiamo iniziato a pensarla e servono... Aspetta, più lo spread... Perché se riparte lo spread, ti ricordi lo spread? Quella del 2011? Roba lì, sì. Bravo. E allora poi il conto sale. Comunque ti spiega tutto Dino Pesole sul Sole 24 Ore di oggi. Leggi Dino Pesole che tutto ti sarà più chiaro. Però insomma c'è anche qualcosa di positivo, ad esempio la pubblicità a maggio è andata un po' meglio, è cresciuta del 2,6, e tra l'altro invece anche un'altra buona notizia, si sta profilando una soluzione per la vicenda dei dirigenti, delle entrate. Anche lì il tempo passa, sì. E il gettito si abbassa, abbiamo visto nei giorni scorsi, adesso forse ci sarà un rimedio nel decreto legge cosiddetto degli enti locali. Un'altra cosa che cresce a sorpresa è il petrolio. Tu oggi non hai fatto caso nelle pagine di finanza al contributo sulle delle materie prime di Sissi Bellomo. No, però, ma se vuoi vado a comprare un barile. Ammettilo apertamente. No, c'è una crescita della domanda di petrolio e questo fa ben sperare. Fa ben sperare. Ma se vuoi sapere tutti i dettagli ti rimando al Sole 24 Ore. In ultimo, ma non per questo meno importante, due cose. La prima è che in occasione del weekend ti do due consigli di lettura. Puoi scegliere tra Aspenia, che diamo con il Sole 24 Ore, la rivista Aspenia, dedicata tra l'altro ai problemi globali del cibo, e Tre uomini in barca, se vuoi rilassarti, come è un classico dell'umorismo, diciamo forse ne avremo bisogno in qualche intermezzo di questo fine settimana. E poi segnati 13 luglio, sì. Click Day, per il credito d'imposta per l'ammodernamento digitale degli alberghi. Segnato. Non è importante che tu capisca. No, però ho segnato. Però vai a leggere in norme e tributi. E a questo punto, buona domenica e soprattutto, traffico! Alessandro Milan, il Dalai Lama d'Occidente. Vabbè, qui ci stiamo allargando, ragazzi, il Dalai Lama. Vabbè, va. 0246524492, se volete mandare la vostra sigla potete anche dire insulti, con sobrietà magari. Comunque il Dalai Lama d'Occidente non è male. Allora, cari ascoltatori, c'è molto spazio per dedicato sui giornali alla tragedia. Ovviamente quando succedono tragedie del genere si dice incomprensibile. Purtroppo è accaduto la morte di Marco, 4 anni, nella metropolitana di Roma. Precipita in metro, muore a 4 anni. Il Messaggero mette questa vicenda come apertura proprio del giornale, poi il racconto a pagina 2 e 3, la tragedia nella linea A di Roma. Anche Repubblica dedica 2 pagine a questo tema. Marco, morto a 4 anni nell'ascensore del metro. Un tragico errore umano, dice l'assessore in prota. Una tragedia senza senso, racconta Repubblica con Mauro Favale e Emilio Orlando. Avvenuta in un pomeriggio di luglio alla fermata della linea A di Furio Camillo, in un polpoloso quartiere a 2 passi da San Giovanni. Che succede? Che la madre e il bambino vanno nell'ascensore della metropolitana, perché la madre porta anche un passeggino e quindi non possono, è scomodo fare le scale. L'ascensore però si blocca. E allora quello che l'assessore in prota dice: scatta l'eccesso di generosità, l'errore umano, perché Francesca e Marco sono agitati, vanno nel panico e un addetto dell'ATAC decide che non è il caso di farli aspettare oltre. Adotta una procedura non codificata, così definisce l'assessore, cioè prende un secondo ascensore, quello di fianco, si posiziona all'altezza di quello bloccato, tecnicamente prova il trasbordo tra i 2 ascensori, rimuove i pannelli laterali, prima uno, poi l'altro, ma cosa succede? Che nel trasbordo c'è uno spazio vuoto di 40 centimetri. Al buio il bambino, appena vede lo spazio libero per andare verso l'altro ascensore, lascia la mano della madre e si butta verso l'ascensore e invece però crolla per 20 metri nello spazio vuoto tra i 2 ascensori. Succede tutto in un attimo, il dramma. Le testimonianze, insomma, qualcosa che davvero raggela il sangue da leggere ovunque sui giornali. C'è anche poi la questione politica, inevitabilmente annessa a questo. Immaginate, con tutto il dibattito che c'è su Roma, arriva il sindaco Marino, viene anche duramente contestato, fischiato, vattene. Tutto questo messo a fianco alle pagine. Lo so che non c'entrano nulla, ma come dire, accostare i 2 fatti, una tragedia del genere, ma come dire, quando le cose devono andare male, vanno male a tutti i livelli. Ora le pagine a fianco raccontano della famosa relazione di Roma devastata dalla corruzione, come racconta il prefetto Gabrielli. Di un sindaco che viene definito con 2 aggettivi, o inconsapevole o inerme. Insomma, voi mettete insieme tutto, anche una vicenda così rischia certamente di essere strumentalizzata, ed è una cosa, questa sì, molto tragica, ma viene letta anche nel momento di una città, di una capitale davvero in grave difficoltà sotto tutti i punti di vista. Sta di fatto che ovviamente trovate molte pagine dedicate a questo fatto di cronaca. Si è salvato invece il presidente della regione Piemonte, Chiamparino. Il TAR ha deciso di bocciare i ricorsi che volevano portare all'annullamento della sua nomina presidente per alcune firme raccolte, considerate false dai ricorrenti, alcune firme che hanno appoggiato lo stesso Chiamparino. Il TAR ha detto che alcune firme effettivamente erano da eliminare, ma le firme da eliminare sarebbero comunque state troppo poche per dichiarare nulle le liste in questione che hanno portato alla vittoria di Chiamparino. E dunque il TAR salva Chiamparino, bocciati i ricorsi sulle firme. La Lega, che aveva presentato i ricorsi, dice: è una vergogna, le firme di sinistra false non valgono, è uno schifo, dice Salvini, faremo comunque un nuovo ricorso, non è finita qui. Staremo ovviamente a vedere. Segnalo, dopo le dimissioni dell'assessore Borsellino, Lucia Borsellino, figlia di Paolo Borsellino, che ha detto in un'intervista a Repubblica: l'antimafia delle chiacchiere non mi piace più, non sarò quest'anno alle commemorazioni per la strage di Via D'Amelio in cui morì mio padre, gli uomini della scorta, il 19 luglio. Segnalo anche il figlio di Borsellino, Manfredi. Lui è un funzionario di polizia che sulla stampa conferma le parole della sorella e dice: in Sicilia ormai c'è un'antimafia di facciata. Non andremo alle cerimonie in ricordo di mio padre. Né io, né mia sorella Lucia, della quale sposo tutte le parole che ha detto, e neanche l'altra figlia Fiammetta, che da 6 anni passa questo periodo a Pantelleria e il 19 luglio fa celebrare una messa in memoria di papà. Io mi sono fatto mettere invece di turno al lavoro e cercherò di fare qualcosa di concreto, senza tempo per commemorazioni senza senso. Così dice il figlio di Paolo Borsellino, Manfredi Borsellino. Lo trovate sulla stampa, lo faccio vedere anche su Periscope, visto che siamo in diretta. Siamo con tanto da leggere, guardate quante cose non riesco a leggere, il tempo non c'è, il Papa, il crocifisso a falce e martello, niente, devo arrivare alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Amici, apre l'università del porno, l'apre Rocco Siffredi, su Libero, Claudia Casiraghi apre l'università del porno perché, dice Rocco Siffredi, ci sono tanti talenti in questo campo in Italia, ma vanno formati, formati. Ma chi se ne frega!